Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, su Arco Edizioni. Siamo arrivati al capitolo sesto. E dunque abbiamo terminato, cari amici, il capitolo quinto, nel quale abbiamo mostrato come Satana sia il nemico dell'uomo. Nel capitolo quarto abbiamo detto che Satana è il nemico, l'avversario di Dio. Quindi abbiamo colto qual è la natura del demonio, e che non è affatto un essere, diciamo così, innocuo. Odia Dio con tutte le sue forze, vuole sostituirsi a Dio, pretende adorazione dell'uomo, e al medesimo tempo odia l'uomo. Abbiamo visto come Satana si presenta all'uomo come un benefattore, in realtà lo fa per adescarlo, per distruggere tutto ciò che di buono c'è in lui e trasformarlo in sua immagine, a immagine della sua perversione. E, come avete visto, amici, finora ci siamo strettamente adeguati all'insegnamento biblico, cioè abbiamo visto, cari amici, come Satana come avversario di Dio è contenuto nella stessa parola di Satana, che vuol dire avversario, no? E abbiamo visto, cari amici, che il suo odio per l'uomo è messo in evidenza proprio da Cristo, il quale lo chiama omicida fin dall'inizio. Ora, noi continuiamo nella descrizione del maligno, col capitolo 6, sempre partendo dalle parole della Scrittura. Dunque, Cristo ha definito Satana il menzognero, cioè l'ingannatore. L'ha definito omicida fin dal principio, cioè colui che vuole distruggere l'uomo, e poi anche l'ha definito col nome di principe di questo mondo. È un'espressione questa di non poco conto, perché la parola principe sta a indicare colui che governa, colui che è il capo. Allora noi abbiamo messo in luce questa espressione, adottata proprio come titolo del capitolo sesto, che è intitolato appunto Il principe di questo mondo. In questo capitolo noi, cari amici, affrontiamo un problema che è fondamentale, e lo affronteremo in termini estremamente rigorosi, cioè soltanto alla luce della Bibbia e del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quale problema affrontiamo? Questo: quanto è forte Satana? Punto di domanda. Qual è la forza di Satana? Questo è il problema che andiamo a affrontare nel capitolo sesto. Vorrei subito dirvi, cari amici, che l'uomo ha paura del maligno, e a meno che non sia molto avanti nel cammino spirituale, ora non ha nessuna paura. Però così la gente normale, la gente così semplice, ha giustamente paura del maligno. Non è che si vidi troppo del maligno, anche se poi lui si sa talmente camuffare che inganna, si nasconde, eccetera, però la gente ha paura del maligno, ha paura del demonio. È fondata questa paura della gente del demonio? Certo che è fondata, cari amici. È fondata forse per ragioni diverse da quella che la gente pensa. La paura nel confronto del maligno è fondata non perché viene a tirarti le coperte di notte o a farti saltare le sedie di notte. Questa paura nei confronti del maligno è fondata perché è estremamente astuto, cioè ha una capacità di persuasione, ha una capacità di inganno alla quale l'uomo non può resistere se non ha la luce di Dio. Quindi sottovalutare la forza ingannatrice di Satana è un gravissimo errore. Non si può, solamente per non voler far paura agli uomini, per evitare che gli uomini si impauriscano, non si può assolutamente tacere sulla perfidia del demonio, sulla sua cattiveria, sulla sua perversione, come non si può, per evitare che la gente abbia paura, tacere sulla sua capacità di inganno, che è straordinaria. Il demonio ha una perfidia sconfinata, come le stesse immagini del drago infuriato, del leone ruggente evocano, ma soprattutto una capacità di inganno alla quale l'uomo non può assolutamente resistere se non è aiutato dalla grazia. È incredibile la capacità di inganno del demonio, è incredibile, cari amici. È incredibile. Ecco per quale motivo Gesù lo chiama il principe di questo mondo. Perché è riuscito a ingannare i progenitori quando erano nel paradiso terrestre e sappiamo benissimo in quale condizione esistenziale si trovavano i progenitori del paradiso terrestre, cioè in una condizione di amicizia di Dio, col dono della sapienza, dell'integrità, del perfetto dominio di sé, della pace, doni straordinari, ma soprattutto avevano il dono della grazia e della sapienza, eppure i cari amici furono ingannati dal serpente. Quindi, se Gesù lo chiama il principe di questo mondo è perché non sottovaluta la sua forza e la sua capacità di inganno rispetto agli uomini, e perché effettivamente Satana è riuscito con la vittoria del paradiso terrestre ad assicurarsi un certo dominio sull'umanità. Poi metteremo in luce quali sono i limiti di questo dominio. Va anche detto, cari amici, che dunque qui c'è evidentemente c'è una carta di credito, possiamo così dire, che Cristo fa alla forza di Satana. Lo chiama il principe di questo mondo, è lui che dice che è il principe di questo mondo. Quando dice il principe di questo mondo sta per essere gettato fuori, lo chiama il principe di questo mondo. E in altre espressioni Gesù lo chiama il forte. Solo che, appunto, attenzione cari amici, poi queste espressioni con le quali Cristo riconosce la forza di Satana, chiamandolo il principe di questo mondo e chiamandolo il forte, queste espressioni di Cristo vanno poi naturalmente interpretate nel loro ultimo significato alla luce di quanto Cristo stesso dice, cioè che lui è il principe di questo mondo, lui è il vero padrone del mondo e che lui è il forte che caccia questo forte. Quindi Cristo riconosce la forza di Satana, la sua capacità di inganno straordinaria. Cristo la riconosce a Satana di essere riuscito a sottomettere buona parte del mondo, ma, attenzione, dice un ma, poi, ma nel medesimo tempo Cristo dice di essere venuto per sconfiggere il maligno, per liberare il mondo del maligno e per mettere noi nella condizione di sconfiggere il maligno. Quindi potremmo sintetizzare, cari amici, Satana è forte e pericolosissimo, ma Cristo è più forte di lui. Questo cosa comporta? Comporta che affrontare Satana senza Cristo significa essere votati alla sconfitta. Quindi attenti qual è lo schema mentale che voglio semplificare, ma che deve essere evidente ai vostri occhi. Satana è forte, voi sapete quante volte anche la regina della pace dice che Satana è forte. Perché? È forte nella sua capacità di inganno. È forte di quella forza che noi gli diamo facendoci ingannare. Ma l'insegnamento cristiano ci dice che Cristo è più forte, che noi possiamo sconfiggere Satana con la forza di Cristo, ma ne consegue, cari amici, che senza la forza di Cristo noi siamo sopraffatti. E questo capitolo sesto, intitolato Il principe di questo mondo, è diviso in quattro paragrafi, che vi preannuncio così voi potete già prospettarvi lo schema che seguiremo. Il primo paragrafo è il diritto di conquista, cioè Satana, la forza di Satana l'abbiamo data noi quando i nostri progenitori hanno consentito al suo inganno. Quindi Satana è entrato nel mondo perché l'uomo ha preferito Satana a Dio all'inizio. Quindi il suo principato su questo mondo sicuramente è in gran parte dovuto al diritto di conquista che ha ottenuto con la vittoria nel paradiso terrestre. Poi analizziamo, cari amici, come col consenso degli uomini Satana ha esteso il suo dominio in gran parte di questo mondo. Ecco perché allora San Giovanni dice che il mondo è posto tutto sotto il potere del maligno. Vedremo come deve essere analizzata, pesata, valutata questa espressione di Giovanni nella sua lettera, che il mondo è sotto il potere del maligno. Questo è il secondo paragrafo. Poi noi nel terzo paragrafo però mettiamo i puntini sugli i e diciamo che comunque Satana rimane una creatura e quindi è soggetto a Dio e quindi non può fare quello che vuole. E se Satana è potente, Dio è onnipotente. Quarto e ultimo paragrafo del nostro capitolo mette in evidenza una verità di fede, fra l'altro stabilita dal Concilio di Trento, comunque fondamentale per la nostra fede, è che anche quando Satana era il principe di questo mondo incontrastato, cioè prima della venuta di Cristo, e comunque anche quando ora lui riesce a sedurre gli uomini, tuttavia la sua forza non è mai tale da togliere la libertà all'uomo. Riesce a ingannare l'uomo col consenso dell'uomo. Ecco dunque il quarto paragrafo intitolato «L'uomo comunque rimane libero di dire di no al maligno». Questo dunque è lo schema con quale affrontiamo questo capitolo sesto nel tentativo di capire fino in fondo le implicazioni di questa affermazione di Cristo che dice che Satana è il principe di questo mondo. E affrontiamo il primo paragrafo, e cioè il diritto di conquista. Vediamo, cari amici, come effettivamente il demonio, e con la grande vittoria che ha ottenuto, ha ottenuto una grandissima vittoria agli albori della storia dell'umanità, con la grande vittoria ottenuta nel paradiso terrestre, ha in qualche modo messo su questo mondo il sigillo del suo dominio, anche se limitato, perché comunque anche dopo il peccato originale l'uomo è in grado di dire di no al maligno. E questo diritto di conquista evidentemente l'ha sfruttato, perché la Bibbia stessa ci racconta, se voi leggete il Genesi, dal capitolo terzo fino al capitolo dodicesimo, voi vedrete che dopo che Satana è riuscito a entrare nel cuore dell'uomo, la storia umana è un crescendo di disordine morale. Se voi leggete i capitoli dal quarto, cioè dalla cacciata del paradiso terrestre, fino al sesto del Genesi, dove c'è il diluvio universale, poi fino al dodicesimo, dove c'è la chiamata di Abramo, voi vedrete che l'autore biblico, lo Spirito Santo, che è l'autore principale, ci descrive la storia dell'umanità come un dilagare del male. Cioè Satana estende la sua forza, il suo potere sul mondo dopo la caduta originale. Quindi c'è un diritto di conquista e anche un diritto di dominio che gli viene dato dal consenso dell'uomo. Vediamo allora questa dilatazione del dominio di Satana sul mondo a partire dal peccato originale. Siamo a pagina 39, leggiamo dunque e commentiamo il primo paragrafo, intitolato Il diritto di conquista. Scrivo, Satana è forte. Ognuno di noi lo sperimenta di persona nel momento della tentazione e negli ostacoli che egli solleva sul cammino della salvezza. A volte la tentazione è furiosa. Il nostro libero arbitrio è debole e Satana ci irretisce coi pensieri che possono essere di vario genere, pensieri di seduzione, pensieri di scoraggiamento, pensieri di turbamento come Gesù nel Getsemani, pensieri di ira, eccetera, no? E quando ci assale siamo in un turbinio in cui effettivamente facciamo fatica senza una grande preghiera a opporci, a tenere ferma la porta del cuore, a tenere ben chiusa la porta del cuore. Quindi noi sperimentiamo di persona questa forza turbolenta e seduttrice di Satana nel momento della tentazione e negli ostacoli che gli solleva sul cammino della salvezza. Quante volte ci ostacola, noi ci scoraggiamo, vorremmo tornare indietro e quante volte ricadiamo sul cammino della salvezza. La Chiesa lo ha constatato nella faticosa navigazione attraverso 2000 anni di storia, fra persecuzioni, bufere e insidie con le quali Satana ha cercato di travolgerla. Lo conferma il mondo, questa forza di Satana, ancora largamente sotto il suo influsso, nonostante sia già avvenuta la vittoria di Cristo, che con la sua passione, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1708, ci ha liberati da Satana, dal peccato. Quindi anche dopo la redenzione il dominio di Satana nel mondo è forte. Il fatto nuovo qual è? È che noi con la grazia di Cristo possiamo sconfiggerlo, solo che la forza che ha Satana dopo la redenzione è quella che gli uomini volontariamente gli danno. Quindi, cari amici, sulla forza del demonio non possiamo avere dubbi. Basterebbe al riguardo meditare l'Apocalisse per renderci conto della capacità di seduzione e di distruzione del drago anche dopo la redenzione. Cioè, l'Apocalisse racconta in immagini profetiche la storia dell'umanità fra le due venute di Cristo, fra la prima e la seconda venuta, e vedrete che è una lotta immane della Chiesa contro il drago. E sembra che il drago si incrementi in feroce man mano che il tempo passa, fino ad arrivare alla convulsione finale, quando cercherà di distruggere la Chiesa, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ma in quel momento, dice Paolo, Cristo lo distruggerà con il soffio della sua bocca, distruggerà l'uomo iniquo, l'anticristo, col soffio della sua bocca, no? Quindi dall'Apocalisse stessa noi ci rendiamo conto della capacità di seduzione e di distruzione del drago anche dopo la redenzione. La sua attività non ha alcun momento di pausa, abbiamo detto che Satana non va mai in ferie, neanche di notte dorme, ma attraversa questa attività di seduzione, di pervertimento e di disturbo, perversa tutta la storia umana, diventando ancora più intensa e furibonda nei tempi che precedono la fine. Gesù stesso riconosce la realtà di questo dominio perverso chiamando Satana il principe di questo mondo. Voi questa espressione la potete trovare in Giovanni 12,31, 14,30, 16,11. Trovate l'espressione di Cristo che chiama Satana il principe di questo mondo. Quindi non lo chiama, vedete come Cristo riconosce che è forte. Essendo noi i protagonisti della grande battaglia contro il maligno che ha in palio la salvezza eterna delle nostre anime, è essenziale conoscere l'origine di questa potenza. Perché Satana è così forte? Conoscere gli ambiti entro i quali lui esercita questa potenza, cioè non è che possa fare quello che vuole, e conoscere anche le possibilità che noi abbiamo di sconfiggerla. Sarebbe grave, infatti, sopravvalutare questa potenza come se l'avversario potesse fare ciò che vuole. Egli è forte, ma non onnipotente. Quindi sarebbe pericoloso sopravvalutarla. Ma sarebbe, infatti, pericoloso anche sottovalutarla. Perché persino i progenitori, rivestiti della grazia, della sapienza e della fortezza di Dio, sono stati ingannati e vinti. Quindi non va sottovalutata perché ha ingannato i progenitori costituiti in grazia, non va sopravvalutata perché Cristo l'ha sconfitto. Va innanzitutto sottolineato che all'inizio della storia umana Satana ha conseguito comunque una grande vittoria, le cui conseguenze si fanno sentire su tutti i discendenti di Adamo fino alla fine dei tempi. Cioè tutti nascono col peccato d'origine. Col peccato originale il diavolo ha ottenuto un diritto di dominio sul genere umano. Cioè noi nasciamo senza grazia di Dio, in qualche modo col il morso del serpente nella nostra carne e con la tendenza al male. Quindi non è che Satana ha vinto soltanto Adamo ed Eva, ma in Adamo ed Eva ha vinto tutti noi, che nasciamo col peccato originale, senza la grazia di Dio, meritevoli della morte eterna se non ci fosse la grazia di Cristo, e comunque con in noi la spinta al male. Quindi il peccato originale non è quel peccato che ha sottoposto Adamo ed Eva, soltanto Adamo ed Eva, al demonio, ma ha sottoposto tutto il genere umano a un certo dominio del demonio. Non ha un dominio assoluto, perché l'uomo ha conservato comunque la sua libertà. Quindi, col peccato originale, il diavolo ha ottenuto un diritto di dominio sul genere umano, Infatti ogni bambino che nasce è sotto l'influsso del maligno. Infatti cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 407? So benissimo che questi concetti vanno giù di traverso a qualcheduno, ma sono verità di fede insegnate, dico costantemente, per 2000 anni dalla Chiesa. Ogni bambino che nasce è sotto l'influsso del maligno, certo. Non lo sapevate? Leggete Sant'Agostino. Leggete il Concilio di Trento, allora. Leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 407, che dice: in conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo. Questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, non è il Catechismo di Padre Livio. In conseguenza del peccato dei progenitori, il diavolo ha acquisito un certo dominio sull'uomo, benché questi rimanga libero. Il peccato originale comporta la schiavitù di colui che della morte è il potere, cioè il diavolo. Quindi, vedete, cari amici, che i nostri bambini nascono sotto l'influsso del maligno, a causa del peccato originale. E sono sotto il potere di colui che dalla morte è il potere, cioè il diavolo. Naturalmente, attenzione cari amici, attenzione, questo testo non si può leggere come se non ci fosse il battesimo, come se non ci fosse la grazia, mi raccomando. Però questa è la conseguenza del peccato originale, che poi naturalmente Cristo ha neutralizzato, ma l'ha neutralizzato col sacramento del battesimo. Ma non c'è dubbio che prima del battesimo il bambino, purtroppo, è sotto il potere del maligno, sotto l'influsso del maligno. Un influsso, attenzione, che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice un certo influsso, un certo dominio. Però il bambino nasce senza la grazia, sapete. Il bambino nasce col peccato originale, il bambino nasce con la tendenza al male. Il bambino senza la grazia di Cristo non potrebbe entrare nella vita eterna. Quindi, vedete, cari amici, il peccato originale ha lasciato conseguenze in noi, non dico nei progenitori. Anche nei progenitori, ma anche in noi. Cioè, attraverso il peccato originale, Satana ha veramente acquisito un certo dominio su tutti gli uomini. È stata una vittoria strepitosa quella del paradiso terrestre. Anche se con limiti, perché non è stata tale da togliere la libertà all'uomo. Quindi, cari amici, è chiaro che questa tinta fosca poi deve essere corretta dalla luce della redenzione. Però per chi la luce della redenzione non la vuole, resta la realtà del peccato. Quindi, cari amici, la redenzione operata da Cristo non impedisce, salvo che per la Madonna, concepita immacolata, la redenzione operata da Cristo non impedisce che i bambini nascano col peccato di Adamo e che in forza di esso siano sottoposti all'influsso del maligno. Per questo motivo ai bambini bisogna dare il sacramento del battesimo, durante il quale il bambino viene liberato dal peccato del suo istigatore, il diavolo. A questo riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1237 dice: lo mettono in evidenza uno o più esorcismi sul candidato, bambino o adulto, con i quali si rinuncia esplicitamente a Satana. Quando si battezza il bambino c'è la domanda: rinunci a Satana? Rinuncio, dice il padrino o la madrina a nome del bambino. Perché? Perché il bambino che nasce è sotto l'influsso del maligno. Per questo motivo ai bambini bisogna dare il sacramento del battesimo, durante il quale il bambino viene liberato dal peccato e dal suo istigatore, il diavolo. Qui cito il Catechismo, 1237. Lo mettono in evidenza uno o più esorcismi sul candidato, bambino o adulto, con il quale si rinuncia esplicitamente a Satana. Poi noi, nella notte del sabato santo, rinnoviamo le promesse battesimali con i vari rinuncio a Satana, le sue seduzioni, eccetera, eccetera. Quindi, cari amici, adesso vediamo l'altro aspetto della medaglia, naturalmente, no? E cioè, i mirabili effetti del battesimo, che ci riveste della grazia santificante, ci eleva la dignità di figli di Dio, ci fa membri del corpo di Cristo che è la Chiesa e ci riapre le porte della vita eterna. Eppure anche dopo il battesimo, cari amici, attenzione, rimangono in noi alcune tracce dolorose del male originario. La Chiesa, vedi Catechismo della Chiesa Cattolica numero 405, la Chiesa insegna che anche dopo il sacramento del battesimo Le conseguenze di tale peccato originale su una natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo provocano al combattimento spirituale. Cioè, dopo il battesimo rimane l'inclinazione al male, la concupiscenza. Si tratta della concupiscenza che è viva nelle nostre membra, come magistralmente insegna l'Apostolo Paolo. La quale concupiscenza non è in sé peccato, però spinge l'uomo a compierlo. Essa è la conseguenza della vittoria di Satana sui progenitori, e l'astuta serpe la sa sfruttare a suo vantaggio, cioè punta sulla nostra tendenza al male, per indurci volontariamente al male e farci suoi col nostro consenso. Nella sua sapiente pedagogia Dio lo permette, perché con l'aiuto della sua grazia possiamo conseguire il merito e la corona della vittoria. Quindi, cari amici, abbiamo visto le meraviglie del battesimo, ma anche dopo il battesimo rimane noi la tendenza al male, la concupiscenza. Satana la sfrutta per far sì che noi col nostro consenso aderiamo al male e diventare suoi. Dio ce la lascia perché, dicendo no a Satana, noi possiamo conseguire la palma e la corona della vittoria.